Radio Forte, 100 celle Avengers. Quando un weekend volge al termine e un altro comincia il sigla incredibile della 35esima puntata. Perché non vedi, perché non sono più quelli che cerchi veramente. Simbolo della paura della gente, senza terra verde, la musica si riprende. E niente, in questo 19 di marzo del 2022 ho provato a fare l'entrata diversa dal solito. Volevi fare? Volevi recitare una poesia? Volevo comunicare tranquillità, ma allo stesso tempo ansia, ma allo stesso tempo felicità. La felicità di cominciare questa puntata incredibile con alla mia destra, come al solito, alla console, Silvano. Buona festa del papà a tutti, ciao. Ecco, e subito spoiler è il grande tema, non è vero, di San José. La volevamo presentare come San José, così carino. Tutti quanti ci mettete quel minuto e mezzo che ci ha messo anche perché stamattina Gabri. San José. Amo San Giuseppe. E niente, questo perché io faccio canzoni latine e poi non serve a niente. Comunque, e non indugiamo nel salutare Virginia. Ciao a tutti, ciao a tutte. E a seguire conquista una postazione di tutto rispetto al si solito la professoressa Viola. Che bello, oggi mi sento proprio, è importante, sto qui. Incredibile. Ciao a tutti, belli e brutti. Ma cioè, è lecito forse salutare subito l'ospite, anche se poteva essere una grande sorpresa, perché forse è la prima volta che si concede a noi non post prodotto. Se posso, è in carne ed ossa. Esatto, se posso, è qui in carne ed ossa. Piuttosto che salutare Iron Man, io, cioè, io saluterei Giorgino. Buongiorno. Ciao Giorgi. Vabbè, sì, no, in effetti, dai, cioè, quando, grazie, grazie. Quando gli ospiti hanno un certo, per rilievo, cortesia, basta. Quando hanno un certo spessore bisogna anche sottolinearlo. E l'abbiamo menzionato tante volte. Oggi Giorgi ci aiuterà anche un po' a svolgere la nostra funzione di radio sul pezzo. E quindi la nostra piccola porzione, parentesi, di attualità sarà tutta una sorpresa. Ma oltre a questo anche i nostri soliti matriosconi di contenuti che contengono contenuti, rubriche che si lanciano. Ma che il dici? Gancio. No. Non capisco questa cosa. Troppo entusiasmo. L'importante, scusate, è l'autoreferenzialità. L'importante è questo. Ovvio. Dici di no? Dici che quindi è la solita trasmissione piatta, blanda, ognuno ha portato il suo. No, parlavo più che altro della quantità di contenuti. Non sono così tanti, noi non portiamo tante cose, non mischiamo tante cose. Assolutamente, siamo, assolutamente. Tra l'altro oggi non c'è neanche il, diciamo, il nostro strumento di sintesi, oltre che la nostra grande amica che salutiamo, Betta, che ci può aiutare, che ci aiutava insomma a gestire il linguaggio, a non metterci tanto a dire le cose. Invece ci metteremo tanto a dire le cose e quindi per questo vorrei festeggiare con voi. E non c'è neanche, scusate se lo dico, perché vabbè, volevo far finta di niente, come no, si fa spoiler. Nelle trasmissioni, no, però non c'è qualcuno, diciamo qualcuno, per adesso diciamo qualcuno, che di solito dava i contatti. Allora, allora praticamente noi abbiamo l'ho fatta un po' come Alessandra, che in realtà è un'altra nostra amica. Parlavamo, diciamo sempre qualcuno che di solito diceva che noi come 100 celle Avengers siamo autoreferenziali, ma ci esponiamo anche volendo alle critiche e ai vostri commenti e alle vostre interazioni. Abbiamo un canale Telegram, canale che poi si chiama Gruppo Aperto, insomma, al quale voi potete iscrivere, lo trovate facilmente ricercando Radio Forte 100 celle Avengers sul vostro incredibile Telegram. E da lì appunto godere dei nostri contenuti, ma soprattutto godere della possibilità di mandarci sempre feedback, vocali, cose, sì. E anche ma affanculo, che è stata come siamo volete, qua, o feedback, potete dirci o quello che volete. Esatto, esatto. Siamo... noi comunque non dico la faccia, perché una volta avevamo anche la stanza Gizzi dove ci mostravamo anche durante, ma comunque l'orecchio ce lo mettiamo se voi ci volete dare un contributo anche audio, ecco. Detto ciò, segnalo anche ovviamente il canale Instagram che certo. È gestito da esatto, colei che dice certo è praticamente il factotum Instagram del canale e Instagram. Facebook, perché diciamo ci sono ecco i contatti anche lì. E basta cliccare sul link radiofortepresino.net e ci saremo noi a farvi compagnia in queste due ore. Ok, esaurita la funzione che comunque era di qualcuno che prima o poi arriverà. Io comunque se potessi definire questo qualcuno direi meravigliosa, affascinante, coscienziosa, puntuale. Puntuale. Cioè, bellissima. Niente, vabbè, la gag è stata rovinata da me stesso, ma questo non succederà più. No. Nel frattempo. Ma io ho fatto la cosa giusta. No, no, tu hai fatto la cosa giusta. Sono io che, siccome volevo fare la gag su una persona assente, come dice spesso questa persona, male peccato. Mi ha colto il male peccato, volevo fare. Esatto, dell'umorismo. Alle spalle, ecco, non mi veniva. E quindi niente, adesso diciamo che ci facciamo una pausa musicale che consta del mio riprendere lo scorso argomento. Ecco, io c'avevo la gemma dell'anima, che è arancione e che a tutti importa. Insomma, la scorsa volta ci siamo rifatti alle gemme dell'infinito e io avevo questo pezzo che mi era rimasto. E siccome, cioè, comunque, come dice il pezzo, non ho voluto rinunciare a metterlo. Adesso ci sentiamo Daniele Silvestri, Testardo. Uso testardo, c'ho la capoccia dura e per natura non abbasso mai lo sguardo. È un'esigenza perché c'ho una pazienza da leopardo. Io so testardo e non mi ferma a niente, vado sempre avanti fino al mio traguardo, indifferente e non mi importa niente se ritardo. Io so di legno e sembro muto e sordo, ma le tue parole sta tranquillo che me le ricordo e qualche volta me le segno. Io so le gocce, quello che dico faccio, io so uno che comunque vada, le promesse le mantiene, che poi nemmeno mi conviene molto, perché so un muro. Eppure se t'ascolto fondamentalmente so sicuro che la tua vita è appesa a un filo e io c'ho le forbici. Però se ancora un po' mi piaci, la colpa è dei tuoi baci che mi hanno preso l'anima degli mortacci tua. Io so di chirico, dico in un senso simbolico, c'ho un controllo diabolico, quasi artistico, del mio stato psicofisico. E se hai capito, mo, traducilo. So tenace perché alla gente piace, ma è evidente che con un coltello mi vuoi far cambiare opinione. Oh, so tenace, ma mica so coglione. Io so de marmo, ma tu m'hai sbriciolato, perché so testardo fino al punto che so sempre innamorato. Se tu m'hai già scordato, infatti la non ma non formale. Però se ancora un po' mi piaci, la colpa è dei tuoi baci che mi hanno preso l'anima degli mortacci tua. Ah. Radio Forte, 100 Celle Avengers, una trasmissione che affronta l'attualità. E nell'attualità, per stare sul pezzo che ci contraddistingue, possiamo anzitutto testimoniarvi in diretta l'arrivo della giornalista Gabri Gruber. Ecco i passi. E niente, io l'ho detto, quando l'ospite è importante bisogna valorizzarlo. E quindi benvenuta. Prego. Benvenuta Gabri, non pretendiamo che tu entri subito in voce. Eccoci, e invece, cioè, siamo mamma ancora un mia, po' il fiatone. Ma che professionista, ma che, cioè, io non so, veramente sono basito oggi da quanto siamo tutti prestanti, sigle contro sigle, e arriva Gabri che comunque sono passati solo 10 minuti. Ho messo il pezzo giusto comunque che mi ha consentito di venire arrivare dal parcheggio a qui. Ma perché abbiamo tentato di dire prima che tu... Voi siete... È meravigliosa, strepitosa, affascinante, coscienziosa, puntuale. Puntuale? Oh, pardon. Cioè, bellissima. Bellissima. Parlavamo della tua bellezza, mentre... Ma anche comunque... La mia puntualità è bella. È anche dovuto a, insomma, ragioni, insomma, importanti, no? Non so se ne vogliamo parlare subito. No, vabbè, ma dai, togliti la giacca, dai, veramente. Anche perché eravamo in un momento nuovo di 100 Celle Avengers, in cui appunto affrontiamo l'attualità. Il che vi siete persi e il che potreste perdervi al Forte Prenestino nelle prossime settimane e nelle passate settimane. Perché poi, insomma, noi andando ogni due settimane inglobiamo una serie di eventi incredibili che poi non sappiamo proprio da dove cominciare nel raccontarli, e quindi non lo facciamo. E anche oggi in realtà non lo faremo del tutto, però insomma diciamo che delle cose avevano raccolto un po' di entusiasmo nella polemica, nel senso argomenti di cui abbiamo parlato poi. Grazie Silly, che non hai fatto niente. Prego, prego. Sottolineato con uno stacco jazz questo nostro momento di approfondimento appunto dell'attualità. Che cosa succedeva al Forte Prenestino un paio di settimane fa, ma poi non è successo? C'era lo showcase, vi ricordate lo showcase? Come no, lo showcase? Lo showcase. La vetrina. Ah, showcase. La vetrina tradotto. La vetrina, la vetrina. Allora, premetto a coloro che sanno di che sto parlando già, che non faremo nomi, questa è una rubrica che tutela la privacy di tutti, quindi parleremo di X, Y, se ci sarà bisogno anche Z. Comunque, lo showcase è semplicemente la trasmissione di Radio Forte che dà, da l'inizio, diciamo, della nostra vita radiofonica, dà voce ai musicisti in maniera live, suonato, prima lo facevamo all'aperto, adesso lo facciamo in regia proprio, insomma il musicale, vabbè, scusate l'entusiasmo dovuto al fatto che noi fonici poi ci impegniamo tanto nel farlo, comunque insomma sta di fatto che abbiamo fatto... Quanti? 9? 8? Vabbè, insomma, diverse puntate di questa trasmissione che non abbiamo chiamato in altro modo che showcase, cercando di rendere quest'idea che poi, insomma, vabbè, non so se la rende. Comunque, insomma, trasmissione musicale in cui i gruppi si esibiscono. Ora, insomma, quella che ci doveva essere il giorno dopo 100 Celle Avengers scorso, quindi aiutatemi, era il 6, se non sbaglio. Bravo Suano, lucido. Sempre sul pezzo. 6 marzo, sempre sul pezzo, non c'è stato. Non c'è stato perché X, il gruppo X, ha defezionato e le motivazioni... Esatto, le motivazioni per cui ha defezionato ci hanno portato poi a discutere. Non perché noi ce l'abbiamo con X, ma diciamo per i vari Y e Z coinvolti nella storia. E che succede? Che noi come Forte Prenestino, anzitutto nel settore del live, quindi non parliamo di interviste radiofoniche come sarebbe stata quella che dovevano fare, ma appunto anche già solo nel settore dei concerti, ci collochiamo in una maniera ovviamente difficilmente spendibile in alcuni contesti, o comunque ci piace dire che chi viene a suonare qua sa dove viene, sa, diciamo, un pochino il percorso che ha fatto il Forte nel suo evolversi. Tuttavia i giovani che poi non sono più venuti perché appunto sconsigliati dai propri managers di venire da noi perché si sarebbero bruciati i pezzi del disco che stava per uscire, incredibile, al di là della genialità di questo manager che insomma forse ha un po' così come si dice, una miopia, una presbiti, insomma, sì, c'è un po' un senso della misura relativo, ma comunque questo ci ha portato un po' a parlare, a rievocare anche altre situazioni, cioè insomma non è soltanto per i gruppi come loro che tuttavia che comunque cercavano promozione, quindi non erano famosi, ma anche i famosi appunto a volte si sono rapportati col forte volendogli diciamo bene da un certo punto di vista, ma non potendo figurare, ecco, questo è il discorso, per cui abbiamo una diciamo folta lista, cioè, svariati esempi di artisti famosi che sono venuti, che ne so, al 1° maggio, alcuni verranno menzionati oggi, saranno dei XYZ del dopo, che sono venuti, sì, e molti lo sapevano, poi attraverso il tam-tam lo sapevano tutti, ma non figuravano sul manifesto perché bla bla bla i loro... Quindi insomma era un po' questo collocarsi a metà che ha caratterizzato gli ultimi decenni, perché il bel pippone è per questo che è l'attualità, perché appunto come ho detto prima, anche se è difficile dirlo in due parole e non lo dirò in due parole, appunto al forte diciamo nascono o comunque sono transitate nella storia diciamo sperimentazioni di quella che una volta si chiamava l'autoproduzione e che appunto aveva tutto un altro senso rispetto a quello che oggi anche un po' così erroneamente, ma anche un poco malafede si intende, e che quindi riguardava sia la produzione, appunto il fare il disco eccetera, ma anche il circuito di distribuzione, insomma vari obiettivi pretenziosi che si è dato diciamo il movimento, comunque una serie di soggetti che volevano appunto che i CD non si pagassero più di un tot, volevano una serie di cose che appunto non è facile enumerare così. Sta di fatto che appunto questo mondo poi cioè, oltre a essere diciamo romanticamente passato perché è legato agli anni 90, è anche appunto stato sostituito diciamo da una serie di partecipazioni che noi possiamo citare, che a volte per esempio mi piace pensare ai Subsonica quando vennero praticamente a Parametro Zero. Lo fanno appunto con voglia di partecipare e con diciamo coscienza di dove lo si fa. Poi c'è stato qualcuno tipo porco Giuda, chi ha detto macchina? No, non era questo, era no, vabbè, scusate, vabbè. Erano loro che si volevano svecchiare, qui erano quando erano giovani. Però insomma sono venuti pure gli After Hours qua, una questione di immagine, poco prima che cominciasse X Factor con Agnelli, quindi proprio nel momento, cioè non che erano in sordina, che non si, cioè, era stata proprio una loro operazione, per dire che insomma c'è una varietà di artisti che hanno preso in vari modi nel calcare il palco del forte. Stati fatto coscio che se invece questi, ripeto, giovani punk rockers non lo hanno fatto, e noi niente, ci siamo così un po' provati a dire le cose che ho detto, più alte che non diremo. Vabbè, perché se parla Gabby di queste cose, stiamo parlando di diritto d'autore. Io credo che sia stato veramente ampiamente. Niente, Gabby è bassa. Una volta che mi dava ragione, mi diceva che ero stato bravo, non si è sentito. Puoi ripetere? Sei stato bravo. Grazie. E, tuttavia mi si è occlusa la vena e ho dimenticato assolutamente che cosa doveva, cioè come doveva culminare questa cosa. Ah, ok, questo era quello che vi siete persi. Quello che arriverà, come sappiamo tutti, è il 1° maggio, il compleanno del Forte Prenestino. E posso dire a sto giro, solo perché è uscito comunque, ci sarà anche Nautica quest'anno, incredibile, incredibile. E 2 secondi dopo che è stato inviato l'evento sul sito, sono cominciate ad arrivare tutte telefonate, fammi suonare, fatemi bere. E sarà una Nautica particolare, non possiamo ovviamente snocciolarci di troppo, ma ovviamente per motivi che immaginate non sarà facile portarcela a casa. Comunque parliamo di maggio. Sì. E niente, vogliamo io sentire un po' di male di niente. Un piccolo dato. Oh Giorgio, ti prego. Da quando è stato pubblicato, ovvero penso tipo 36 ore fa, il post su Enotica sul sito del Forte ha visto 119.778 visite. Mamma mia. Grazie Giorgio, grazie veramente, in mancanza di Betta. Ci sta comunque chi gestisce i numeri. Un contributo prezioso. Contributo prezioso, grazie Manuel. Grazie Manuel. Comunque torniamo pacati. Come... Scusi, è che mi piaceva. Anche a me male di mia ci piaceva. Tuttavia, appunto, sciorinato quello che ci siamo persi, quello che doveva succedere poi, Virgil, cioè lo vuoi dire in diretta? mandiamo un brano, no? Sì, ma cioè non è che pronto? L'ho fatto io, andiamo l'ho selezionato io, perché devo... questo ha il colore del potere, quindi sei tu quella che... No, non è il colore del potere, è il colore dello spazio, se non sbaglio, per favore, è il blu. Non è un pezzo selezionato da te, Virgi? Sì, però non per me. Ah. Allora, questo pezzo è stato selezionato nell'ultima puntata, appunto, sulle gemme dell'infinito per... Ah, ecco, perché si chiama Mr. Blue Sky. Ma devi uscire da questo trip, hai ragione. Questo ormai è... ci hai messo te. Scusami, non mi ero accorto che si chiamava così. Sì. No, vabbè, questo brano, diciamo, ecco, ritornando alla puntata precedente, è l'apertura di Guardiani della Galassia 2. E quindi adesso ci ascolteremo il pezzo che non volevo pronunciare, cioè Mr. Blue Sky degli Electric Light Orchestra. Prego, grande maestro. Buono! tutto c'è le aventi. Oh ma! Radio Forte 100 Celle Avengers, torniamo in voce alle 17:25 di questo 19 marzo. San José, abbiamo detto prima, che ha visto anche arrivare una persona per la quale comunque dopo che è arrivata in diretta sul canale Telegram sono arrivati subito vocali, tra cui ce n'era uno che volevo far sentire. Auguri Gabriella per il tuo compleanno. E infatti, c'è da dire, mo scusa, non so se volevi fare qualcosa di particolare anche a sorpresa per noi, tu per noi, ma volevo dire appunto che si è consumato, e dico consumato, il compleanno di Gabri. E gli auguri, e quindi, di Maccio Capatonda mi mancavano, grande, grazie. E quindi grazie. auguri, lo rinnoviamo anche noi della redazione 100 Celle Avengers. Tutto questo per prendere tempo, perché appunto quando poi, lo sapete, c'ho una sigla nuova e sono emozionato, quindi prendo tempo e vabbè, anzitutto devo dire di cosa, cioè avevo detto rubriche nuove che nascono, che crescono, rubriche che muoiono, non è vero, non ne muore nessuna. Ma te pare? Comunque questa è la rubrica che si chiama Aspettando Mogol e che è dedicata ai testi delle canzoni. E fino a mo ne abbiamo parlato, abbiamo fatto varie puntate senza avere in realtà il diritto di farle perché non c'era quella che potremmo definire la sigla. Dammi tre parole, paracetamolo. Come parla? Scrivo un testo, scendo tutto al bar, sembro tutto anche a, ho speso due campa su una sca. Come parla? Ma che bella canzone. Le parole sono importanti. Potranno mai le mie parole. E benvenuti quindi alla rubrica Aspettando Mogol, rubrica che prende in esame i testi delle canzone e che appunto, come ho già detto, si era già sviluppata e talmente è stato il successo della trattazione casuale in realtà in quell'ambito del tema, in quel caso si parlava per esempio di canzoni che avevano al loro interno nomi di cose tecnologiche eccetera, e quindi un ascoltatore subito secchione mi mandò tu memoria da USB, bellissimo, volevi confondermi, volevo valorizzare un altro file senza wifi. Scusa Silvano, stai troncando il campione. Ok, no, per dire che comunque la rubrica è nata adesso vuoi è nata comunque senza che io lo volessi, è stato proprio il pubblico che mi ci ha spinto a analizzare le canzoni appunto. L'altra volta abbiamo poi fatto un campionato degli accenti spostati, insomma ne abbiamo viste tante prima di avere la sigla istituzionale che ci permette di parlare. Quindi vabbè, niente, io come al solito introduco la cosa partendo da me stesso perché come dice Gabri sono narcisista egocentrico. Io? Ta-ta! Vabbè, niente, non si lavano i panni sporchi in pubblico. Comunque, sta di fatto che appunto la mia passione, forse il mio accanimento morboso con i testi nasce dalla difficoltà che ho avuto nel provare a scrivere testi, insomma. E amo sempre citare appunto nella rubrica IM il gruppo degli Happy Noise, che era un gruppo che inizialmente si nascondeva dietro l'idioma dell'inglese, che permetteva a noi tutti, a me soprattutto, di nascondere appunto dietro all'ignoranza media della lingua inglese in Italia, nascondere quello che eventualmente volevamo dire o non dire appunto, cioè è proprio tutto un linguaggio che permette alla voce di essere solo musicale e non compresa nel suo essere. Dopodiché appunto la sterzata verso l'italiano quando siamo un po' cresciuti ha creato dei problemi incredibili, a me intendo, cioè dei muri mentali in cui non riuscivo a superare le cose, a vivere appunto lo strumento voce come se fosse uno strumento e pensavo solo a quello che stava a dire, mi sembrava sempre brutto, banale e appunto mi ascoltavo mentre appunto con lì sempre giù. Mannaggia, hai ragione Alexa. Hai ragione, vabbè, questa era l'origine, era per dire perché mi sono un po' frustrato io, come tutti quelli che fanno un genere che è nato da un'altra parte e che ha avuto la sua spaghetti version, perché appunto non è che noi in Italia potevamo saper parlare l'inglese e poi fare anche noi, quindi, i nostri rap per esempio in inglese. No, abbiamo fatto gli spaghetti rap, così come appunto lo spaghetti punk poteva essere nel caso degli Happy Noise, quando decisero di cantare in italiano. Sta di fatto che appunto io ho citato il rap non a caso, perché quelli che ho ammirato come riproduttori di quello che era, diciamo, l'immaginario musicale dell'hip hop, quindi negli Stati Uniti dove era nato, sono stati per me i Sangue Misto. E Sangue Misto, per chi i pochissimi che non lo sapessero, sono il gruppo appunto dove ha cominciato anche Neffa. E che sono stati, diciamo, un po' considerati capiscuola un po' del genere, se non altro per la capacità di trasporre un mondo fatto di cose che appunto in italiano già c'avevo problemi a dire delle cose, cioè figura degli acronimi, ecco, perché oggi per esempio parlo degli acronimi, una cosa che agli inglesi, cioè agli anglofoni, gli viene molto facile, che ne so, immaginate uno degli acronimi più famosi nella storia degli acronimi musicali. Lo sapevi che era un acronimo? Poi qualcuno adesso cercherà per favore che cosa voleva dire esattamente, dicendo le parole precise. Comunque era... Dopodiché, io ad esempio ne ho visti tanti, questo è il solito musical air che metto tutte le volte, dove vengono citate praticamente tutte una serie di sigle legate a, vabbè, a sostanze varie. La N e la doppia FA è appunto quello che stavo dicendo, cioè la capacità di creare. I Sangue Misto hanno creato vari neologismi loro appunto interni a quella che si può definire la ballotta, e che hanno fatto, oltre che scuola, insomma, imitati da tanti, anche appunto una trasposizione credibile di quella, insomma, di quel rappare sul ritmo, che in realtà appunto tutto questo dagli altri esempi che non citeremo, li chiameremo X, Y, Z, esempi di hip hop italiano, non ho mai trovato. Quindi per questo motivo e non per altri ascolteremo La Porra dei Sangue Misto e torniamo negli anni che Gabri era piccola. Sì, poi ti dico cosa significa MCA. Grazie, sempre sul pezzo, La mia ballotta fumo porro in quantità, tanto quanto basta. Le mie mani nella pasta, la mista è ben farcita, io la faccio su. Manco fossi Mina, vedo mille bolle blu. Hey hey hey, cicco, se anche te sei come me, bella lì. Noi siamo soci nel THC, plin plin, senti come suona quando sale. E oh, fumo la mia porra, zero trip trip trip. Fottono la testa di un guaglione con il bip bip bip. Io resto affezionato a un dado Knorr, cartina filtro, paglia fumo uguale a morra bella tesa ed ho la giuta. La mia mistura è ricca, la dose esagerata che ti spacca. HP, che quando assumo a shit, sento gli ultrasuoni e vedo a raggi. Vado sulla luna come Ben 10, parte l'astronave Delta 9. C'è che deda per la gente, piena di grazia è la mia pipa, e porto marijuana in Vaticano come dono per il Papa. Santo Padre benedici la T con HC, siamo complici tipo è lei che mi ispira, si gira dentro di me e manda fuori che non ce n'è. Nella mia testa suona e anche se stona trova l'armonia, ti avvizza pronti via e come per magia di nuovo blu blu quando faccio su. Seguo i segnali di fumo sulla traccia con la mia tribù, fumo la porra zero pare cico, capisci bene perché già sai del guaglione per la legalizzazione. E se per quei signori io sono ancora fuori, mi prendo cura dei miei affari, magari siamo pari. Rendo l'idea, cremo punto e basta, c'è sintonia con le mani in pasta. Fumo senza sosta, non mettetemi alla sbarra. Se in testa c'ho la rima e nella mano c'ho la salve. Ho visto sempre nello stesso film, stessa sacra d'acqua. Se marco la lastra, la mala fina. C'è. La N e la doppia F A. Un cane sciolto nella mia città. Parlo della porra perché solo lei mi gusta. Compro la mia stecca, non mi compro mai la busta. Nasce dall'unione della terra con il sole. Io la fumo dentro una cartina perché so che pure lei lo vuole. Coi miei guaglioni da mattina a sera. La porra lucida, le rime come cera. Vedi che di porri io mi intendo e so farli. Presso con il dito tipo Bob Marley. Fateci gremare in pace senza troppi drammi. Ne fa dei da DJ Graff in dopa. Oh yeah, we're jamming. Mi sveglio, preparo il mistone in un'insalatiera. Passo la giornata intera, ma pizzo un gian sugoso e me ne sto in crociera. Fora, gremo fino a sera e ancora. Chiuso in una cartina dentro un cilo, un bla. Magari di scano, di stoffa in testa van. La fattanza spanda, colori dentro questo grigio manda. Un tromba al volo che t'acqueta, lascia una fragranza lieta. E quando ne metti troppo non si spreca. Sei buono, con la merda e non mi stono. Capiscimi bene, tipo, capiscimi al volo. Il fumo pacca come la roba, manda in paravera. La svolta quotidiana di un guaglione si fa dura. Nella piazza, dove il tabaccaio smazza. Plasticone, strumpa, Lazio, non ne voglio mezza. Devo sentire il gusto della pianta, io non fumo scarpe. Questo non è scherzo a parte, non mi diverto. Controllo sempre il ciocco, non mi fido, specie quando incido. Io non penso positivo, penso al cielo. Al cielo. È un buon cilotto, s'uso di bella quanto abuso. Zero pane per l'uso. Non ho dovuto succarmi neanche le istruzioni. Ho solo allenato i polmoni, cilando con gli amici buoni. In questo caso i miei guaglioni. Sangue misto sempre nello stesso film. Stai ascoltando Radio Forte e questo è Centocelle Avengers. Questa trasmissione è un patchwork di musica passata, presente e futura, tutta orbitante attorno ai progetti del Forte. Dalla scuola di musica performance live, passando per un po' di sana follia che non guasta mai. Centocelle Avengers, la musica si difende. E Radio Forte, Centocelle Avengers, la musica si difende, ma soprattutto in un mondo in cui taglia la cultura, ci tolgono il piacere di sentire anche le poesie, noi abbiamo la maestra, professoressa Viola, alla quale buonasera, sì, noi resistiamo, sempre resistiamo. E buonasera a tutti, e oggi parlerò del viaggio e attraverso le parole e il pensiero di un poeta greco, Costantino Cavafis. Cioè, Iron Man, hai capito? Iron Man voleva sentire la sigla, però. Ah, è vero. Ma come? Ma perché? Cioè, ho detto, vabbè, che parliamo di cultura, ma quindi. Io sono partita già a mille. No, prego, anzi, bravissima. A 100, come 100 c'è l'Avengers. Allora, quindi. E quindi sigla. Lasciatemi leggere. Sentire questa poesia. Morì. E non so leggere. Questa poesia. Ma come fa? Talmente era l'ansia di comunicare. Ma come fa a dimenticarsi tutto, Prego, sono io. Una distratta. Allora, quindi stavo dicendo, anzi ho anticipato, che appunto oggi parleremo del viaggio. Ovviamente il viaggio inteso come viaggio della vita, viaggio diciamo anche interiore, e lo faremo attraverso il pensiero di questo poeta Cavafis, appunto un poeta greco che nel 1911 scrisse una poesia intitolata Itaca. E diciamo che questo è il viaggio, appunto questa poesia ci fa capire, ci inoltra, ecco, più che altro nel viaggio della conoscenza, cioè un percorso che soprattutto di questi tempi, diciamo, tutti sembrano voler un po' anche, diciamo, affrettare. E allora lui afferma che l'importante non è quello che trovi alla fine di una corsa, ma quello che provi mentre corri. In realtà questa è una cosa che ci ha detto Giorgio Valetti nelle ultime battute di notte prima degli esami, ma che appunto Cavafis, diciamo, aveva anticipato. E quindi questa poesia che parla del viaggio della vita, della ricchezza e della profondità che bisognerebbe avere guardando ognuno al proprio percorso. E poi diciamo che Cavafis ci mostra fin da subito quello che sarà essenziale per tutta la poesia, e quindi la pazienza, diciamo, di viaggiare. Cioè non importa arrivare subito al proprio obiettivo, alla meta, perché quello che conta veramente è come il percorso già di per sé ci può arricchire. Si tratta in realtà di un concetto anche per così dire hegeliano, il percorso della coscienza, che viene definito anche romanzo di formazione, in virtù del fatto che in entrambi gli eventi che capitano al soggetto che si sta formando assumono, diciamo, un significato in quanto appunto questi eventi vengono interiorizzati. E ogni esperienza che la coscienza fa in questo movimento è già essa stessa esperienza di sapere, come appunto ci insegnava il grande filosofo Hegel. E per quanto riguarda appunto gli antagonisti del percorso di Ulisse, di questo viaggio, anche nella poesia di Cavafis che riprende appunto, ci sono i lestrigoni, i ciclopi e Poseidone, che diciamo che anche se incontrerai, appunto lui dice, anche se incontrerai questi personaggi che sono intesi come gli ostacoli, no, lungo la strada, e certamente appunto ognuno di noi li incontrerà o li ha incontrati, l'importante è continuare a tirare fuori il meglio dalla propria esperienza, non perdendo di vista la propria meta. Allora, quindi adesso vi recito la poesia. Abbiamo un adeguato sottofondo voluto dalla maestra, sì, Viola. Grazie. Itaca. Se per Itaca volgi il tuo viaggio, fa voti che ti sia lunga la via e colma di vicende e conoscenze. Non temere le strigoni e i ciclopi o Poseidone incollerito, mai troverai tali mostri sulla via. Se resta il tuo pensiero alto, è squisita l'emozione che ci tocca il cuore e il corpo. Né le strigoni o ciclopi né Poseidone asprigno incontrerai, se non li rechi dentro nel tuo cuore, se non gli drizza il cuore innanzi a te. Fai voti che ti sia lunga la via, e siano tanti mattini d'estate che ti vedano entrare, e con che gioia allegra, in porti sconosciuti prima. Fa scalo negli empori dei fenici, per acquistare bella mercanzia, madrepore e coralli, ebani e ambre, voluttuosi aromi d'ogni sorta, quanti più puoi voluttuosi aromi. Recati in molte città dell'Egitto, a imparare dai sapienti. Itaca tieni sempre nella mente, la tua sorte ti insegna a quell'approdo, ma non precipitare il tuo viaggio, meglio che duri molti anni, che vecchio tu finalmente attracchi all'isoletta, ricco di quanto guadagnassi in via, senza aspettare che ti dia ricchezze. Itaca t'ha donato il bel viaggio, senza di lei non ti mettevi in via, nulla da darti più. Se la ritrovi povera, Itaca non t'ha illuso. Reduce così saggio, così esperto, avrai capito che vuol dire un'Itaca. Ma bom bom bom! E ci sta pure bene sul sottofondo. Grazie. Brava Violetta. Grazie. Voglio sapere dov'è il tastino degli applausi, più che altro. Grazie ragazzi, ma, oggi mi servono particolarmente. Non so di che tastino parli, questi sono applausi veri della folla che è qui a sentire la diretta di Centocelle Avengers, come ogni sabato, nella sede di Forte Prenestino in Roma. Sì. Il nostro pubblico live. Ringraziamo comunque la maestra Viola che appunto ci ha dato anche uno spunto musicale che forse sfrutterei di più. È una canzone molto bella. E che ci traghetta in realtà verso orizzonti lontano vicini, insomma i vari ganci, come dicevo prima, che ci lanciamo a vicenda, perché allora non avevamo il tema, ok, io ho detto non dobbiamo essere schiavi del tema, come ho detto team slaves, io volevo parlare di cani comunque, ecco. Gatti e ok, sì, non può essere che ogni volta la puntata, se non c'è il tema conduttore su cui ognuno fa il suo compito, e quindi oggi siamo tutti a briglia sciolta, come si suol dire, e nella briglia sciolta ci siamo cominciati a intersecare senza volere con vari diciamo crossover, ormai li chiamiamo, quando una rubrica pesta i piedi all'altra rubrica lo facciamo passare per sinergia. Cosa è successo? Che adesso noi parleremo dei 24 grana che stiamo ascoltando, ma lo faremo dal punto di vista di chi analizza gli... Mi viene da ridere perché cerca la sigla sempre mie, non trovo. Ha pure diviso tutto coi colori per capire, esatto, meglio. Esatto. Niente, questa idea. Cosa dei colori ma neanche sta fallendo. Neanche Funonzia questa, allora, cosa. La rubrica che cura i scioglimenti e le reunion dei gruppi, che si chiama Rise and Fall, che ha una sigla. La nostra reazione è terminata. Insieme a te non ci sto più. Lasciamoci. Lasciarsi un giorno. Potresti dirmi addio. Lasciarsi. E qui non ci sto. Vai, vai. E improvvisamente stiamo di nuovo insieme. Stiamo insieme di nuovo. Che bellezza. La nostra bella vale. L'ho fatta. L'ho fatta. Ricominciamoci. Siamo amici, buongiamo fuoco sotto la cenere. Ci sarà un gigante aspettato. Ma che succede? E a Rise and Fall oggi, appunto, 100 Celle Avengers, che cosa andiamo a trattare? Lo scioglimento e la reunion dei 24 grana. E se già non posso prendermela con Silvano perché poco fa mi sono autosabotato tecnicamente, non solo non me la posso prendere con lui, ma anzi lo devo ringraziare perché è stato lui a segnalarmi alla casella da mail che uso per interagire con gli ascoltatori della redazione di Rise and Fall. Mi ha segnalato l'interessante caso dei 24 grana, che comunque sono venuti anche a suonare forte, sì, sì, in un tempo che io ero veramente... giovane, avevo poi, più capelli, insomma. In realtà ricordo anche che nel 2000, beh, non mi ricordo, 2017 forse è venuto Di Bella, Francesco Di Bella, sì, esatto. E infatti io poi lì si era separato lì. Sì. Lì si era separato. E io infatti poi ero rimasto a questo, che ora lo teniamo un po' come sottofondo, che però va gestito dal sottofondista. Un attimo che arriva il sottofondista, eccolo qua, è arrivato. È incredibile. E Odiavolo. Odiavolo è un disco solista di Francesco Di Bella, che poi, appunto, come diceva Viola, è venuto anche al teatro addirittura del, sì, Forte, a fare un evento molto, diciamo, intimo, acustico, molto bello. Sì. Comunque, insomma, appunto, se so, come spesso accade, divisi. No, cioè, nel senso, come spesso accade, si sono divisi e si ricordiamo tutti il cantante, il cervello del gruppo più o meno. Era anche il bello del gruppo, scusami. Diciamo che poi il nome è di fatto. È stata... Il trasporto con cui Viola ne parla, infatti, fa capire quello che Silvano poc'anzi suggerì. Veramente un bel manzo. No, vabbè. Non c'è niente da dire. Io credo che sia anche perché sia stato colui che poi ha continuato e ha portato avanti, diciamo, ha portato anche avanti il nome di tutti gli altri. Non lo so, che fanno. Ma come? Questa rubrica che c'è sta a fare? Scusa. Vabbè, allora aspetto che mi raccontiate. Brava. Cose. Sta di fatto comunque che si sono, appunto, riuniti, nel senso che mi dice Silvano, appunto, che sa di un qualcosa che deve avvenire. Beh sì, perché praticamente quest'anno sono 25 anni dalla formazione dei 24 grana. È per questo che il maestro se li ricorda tanti anni fa qui, perché effettivamente è un gruppo che esiste dal... Mamma mia. Allora, io vi dico la verità, in realtà esiste dal 95, quindi sarebbero 27, però loro hanno levato i due anni in cui si erano separati. Di pandemia. Esatto. Okay, no, in cui si erano separati. In realtà loro durante la pandemia si sono riuniti e hanno registrato un singolo su a Londra, gli Abbey Road Studios. Sigla! Mi raccomando, hai detto Abbey Road. Comunque sta di fatto che ci danno il là per parlare di questo altro parametro nell'analisi del fenomeno dello scioglimento e delle reunion, cioè il seguire i numeri, cioè multipli dei 5, vale tutto, insomma c'è sta, quindi i 20 anni, i 25 anni che comunque sono un po' più, poi i 30, è un po' come Gabri quando cerca motivi per festeggiare, c'è sta la laurea, poi c'è sta l'abilitazione, poi c'è sta... Vabbè, quest'anno la ho fatto 35, insomma, stiamo sempre a bere, però... Quest'anno sono 10 anni invece. Però basta, c'è da dire anche che c'è da festeggiare Gabri, comunque vabbè... No, no, vabbè, diciamo auguri, che Gabrina. Così è anche quello che insomma non auguri, solo Gabriele, non solo maccio per il tuo compleanno, ma anche insomma vabbè, sono andato fuori tema, sono andato fuori tema, adesso torniamo ai 24 grana che appunto danno il là al fatto di c'è gente che ovviamente imbroglia, cioè che ruba, che ne so, mo se so accorciati con la pandemia, 27, 25. Quella, cioè, insomma, state attenti perché c'è gente che magari cerca di festeggiare due volte, cerca di, così come Gabri, perché sono operazioni commerciali, poi appunto, insomma di fondo e noi siamo lì a scovarle queste, per questo ne parlo, brava Gabri. E quindi a questo punto ci sentiamo i 24 grana, però come erano, come piacevano a Angie, che salutiamo, che ci ha suggerito questo pezzo, che purtroppo ha, cioè purtroppo nel senso che non lo potete vedere, ha un gran bel video, che però vabbè, niente, ce lo vediamo noi. Titolo? No, è vero. Stai mai qua, stai mai qua, non stai mai sul pezzo. Ah, non è la vero. Mia preferita. Stai mai qua. 24 grana su Radio Forte, adesso tolgo il fastidio. Sempre in diretta su Radio Forte 100 Celle Avengers si chiude Rise and Fall, la rubrica degli scioglimenti e delle reunion, in poche parole. Ma che non lo sai che il mondo è fatto a scale? Chi le scende e chi le sale, santità. E quindi si passa a... Una se ne chiude e una se ne apre. Esatto, a un'altra rubrica dotta e gonfia di contenuti, sì, sì, che sì, passa sì, per il nome di Cigni di Ballacalo, posso spoilerare, tanto avviene fra poco, no? Avviene. Ma che battutaccia. Sta avvenendo. Scusate. E niente, al tuo comando scateno la sigla. Va bene, allora la mando subito. Sigla. Ma non lo senti che è uguale ai cigni dei Balagà? Oh bene, eccoci rientrati e tornati, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Cigni di Balacà. Mi sentite? Sì, io continuo a sentirmi, sembra sempre un po' bassina, bene, sì. Ma se voi mi sentite tutto a posto. Allora, stiamo compensando, vai. Siamo con te, benissimo. Stiamo anche girando una sigarettina, intanto, allora, no, ecco. Mamma mia, no. Stai sul pezzo, ti prego. Pezzo. Sì, sì, sì, sì, allora, oggi partiamo dalla stringente attualità, ragazzi, è così. Carichissima. Perché vediamo se oggi, no, oggi ho anche, guarda, solo degli appunti così vaghi, ma... Ecco perché, diciamo, me la sono fatta facile. Che cos'è oggi, infatti, ragazzi? Oggi, non so se... È la festa, la festa del Papa. Scusate, sì, l'abbiamo detto, lo ribadiamo, io ho bisogno di... 19 marzo. Esatto, 19 marzo, festa del Papà, e me la sono dovuta scegliere, insomma, per ovvi agganci e questioni di opportunità, anche perché, tra l'altro, voglio assolutamente tralasciare le origini di questa festa, come sappiamo, insomma, anche questa ha origini cristiane, è una festa cristiana, infatti ho scoperto che è nata alla fine dell'Ottocento. No, ecco, no, la non chiesa svigolare, dici il gancio, dici il gancio. Ma infatti, ecco, le tralasciamo le origini. No, poi le puoi dire, però il gancio quindi è la festa del papà. Il gancio molto con... banale che oggi è la festa del papà, quindi parliamo del diritto di paternità. Cioè, scusate, se, cioè, questo è un gancio radiofonico. Grazie, okay? Grazie. Qua grazie. C'è gente che lavora. Grazie, prego, grazie, scusi, grazie. Scusi. Parliamo della paternità dell'opera dell'ingegno. Cini di Balacà, come sapete, si occupa di plagio prevalentemente, quindi diritto d'autore a 360 gradi. Il diritto di paternità sull'opera dell'opera dell'ingegno è uno dei diritti morali d'autore. Questa ve l'avevo già detta, ma ve la ripeto perché so che ci tenete a saperle queste cose. E, sono quattro i principali diritti morali d'autore, quindi non parliamo di soldi, fondamentalmente, non per non una dire volta. Non quattro un'altra volta perché sennò... Anche altrimenti sono parte quattro. Subito... Come il dire ciò. C'è quello di paternità, quindi insomma il diritto dell'autore di rivendicare naturalmente la paternità dell'opera, cioè questo è mio, è figlio mio, questo pezzo, questa opera, questo libro, quello che è figlio a me. Poi c'è il diritto di integrità, che è il diritto dell'autore di opporsi a quelle modificazioni dell'opera che possono ledere o comunque recare pregiudizio alla sua reputazione. Il diritto di inedito, quindi di non scegliere di pubblicare mai l'opera, volendo. Questo quindi è una cosa riservata solo all'autore dell'opera stessa, e quella di ritiro dall'opera del commercio. Ma quello più importante resta sicuramente il diritto in questione, quello di cui stiamo parlando, quindi la paternità di quest'opera. E il plagio sta tutto là, fondamentalmente, cioè il concetto di plagio è proprio un furto della paternità. Tu dici no, quest'opera l'ho fatta io, invece prendi, ti arroghi appunto il diritto di dire no, invece l'ho fatta io. E questa cosa mi ha anche fatto venire in mente l'apologo di Re Salomone, però non lo so se lo posso dire perché non c'entra veramente nulla. Stiamo però... scherzando. Io trovo che vabbè. Sì, no, mi veniva in mente. Magari saltiamo, mettiamo l'asterisco. Mettiamo l'asterisco. Ma perché Re Salomone, come sapete, si è trovato a dover dirimere quella diciamo lite, quel conflitto fra le due madri e le quali ambedue le quali ma quello è Salomone. Salomone. Ah, okay. Sì, sì. Ah, mamma mia. Dicevano dire... questo figlio è mio, no, questo figlio è mio. Okay, okay. E quindi mi è venuta in mente un po' questa, diciamo, metafora, anche perché molto furbamente Re Salomone, anche lui purtroppo personaggio cristiano, non me ne vogliate, però insomma, il senso qual è? Che saggiamente, proprio perché lui è appunto erto a simbolo di saggezza, per dirimere questo conflitto fra le due madri ha avuto quella splendida idea di dire va bene, allora se nessuno delle due, insomma, tu dici che è tuo, lei diceva sì, ma vedi perché mio figlio, guarda, c'ha il neo uguale al mio, quell'altro davvero no, la stai c'ha... raccontando. Sì. Diamo per insomma, alla fine decide di sì, diamola per scontata, tutti la sapete. No, magari qualcuno no. E dice tagliamo questo figlio a metà, così fate che ognuna se ne prende un pezzo. Ecco. Anzi, mo chiamo il padre di mio fratello, che so peggio. Esatto. Dice che gli ha detto pure così poi. Ecco, e questo diciamo è stata la via per far scoprire, venire a galla la verità, perché la vera madre, ecco, a quel punto si è palesata e ha detto no, piuttosto che non uccidere mio figlio, di non dividerlo in due, io lo cedo all'altra donna. Ecco, ci e lì, ecco, Perfetto. E con il diritto d'autore pensavo si potrebbe fare la stessa cosa. Io ti rovino no, l'opera. Ho colto adesso il esatto. Bravo, ecco, bravo, bravo. Il vero autore al che potrebbe palesarsi e dire no, piuttosto che distruggerla o rovinarla, io la cedo a te. Io non li voglio esordi. Se... Quindi se nelle aule di giustizia si portasse più saggezza o furbizia, ecco, male non sarebbe. Ma tornando a noi, ecco, qual è il focus di questo mio Cigni di Balacà quest'oggi? Parliamo di coreografie e opere coreografiche, opere pantomimiche. Io rivado con la sigla. No, scusate. Ecco, sì, scusa Virgilio, lo so Virginia, che mi sovrappongo un se po' alla... c'è una sigla, sì, se c'è una sigla... No, vabbè. Guarda, te lo volevo dire, purtroppo l'ho concepito 5 minuti fa questo guardi, argomento. Quindi... io per i crossover sono sempre pronta. Benissimo, teniamocelo, riserviamocelo. E dicevo perché la protezione del diritto d'autore, come sappiamo, non riguarda solo le opere musicali o quelle letterarie, ma appunto anche le opere coreografiche. I balletti, in sostanza i balletti, è l'articolo 2,3 della legge sul diritto d'autore che ci dice che sono tutelate le opere coreografiche e pantomimiche delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti. Quindi una caratteristica importante per questo tipo di opere è che vengano comunque registrate, e la SIAE vabbè ce lo ricorda, insomma. E no, tu ce lo ricordi. Eh sì, vabbè, infatti, vabbè, queste sono poi cose. La SIAE che... ci scrive. Sì, e un caso tutto italiano, per esempio, che ha riguardato proprio appunto una querela ha riguardato il furto di una coreografia, e è stato sollevato proprio da Luca Tommasini contro Rosel. Rosel, tutti la conosciamo, è uscita da una delle cantanti uscite da X Factor. Vabbè, io non lo sapevo, nessuno di noi lo sapeva, molto bene, magari qualcuno in ascolto sì. Pare che non la conosce nessuno, ho chiesto qua sì. E che ha fatto? Se ne è uscito con un Twitter, in sostanza, Tommasini, dicendo: cara Rosel, amico, un Twitter? Un tweet. Singolare. Con tweet, io ho detto. Twitter è quello che tu... Vabbè, vai avanti, ah, scusa. Okay. Se ne è uscita con un tweet dicendo che appunto: cara Rosello, mi congratulo con te per questo video, le coreografie sono bellissime, peccato che non sono le tue ma sono di tale Filippo Ranaldi full e mie, appartengono a X Factor eccetera, e quindi insomma si lamenta, e anche dicendo infine: peccato che le coreografie in Italia non vengono tutelate dal diritto d'autore. Errore, caro Luca Tommasini, e non è così, per ovvie ragioni, lo abbiamo appena spiegato. Esatto, quindi gli manderemo un tweet dicendogli: ascoltati la puntata di oggi di Cigni di Balacà di 100 Celle Avengers, così tempari un po' de cose. E con questo andrei avanti verso già la conclusione, perché voglio parlare della vera querela che ha riguardato furti di coreografie, e ha riguardato il nostro grande amico, non so perché Silvano anche ride, il fondatore della rubrica più o meno. No, ti insegno a vive, è bellissimo. Impara a vive. E la querela delle querele riguarda Michael Jackson, ragazzi, no, perché giura. Sì, è lui il re del pop, lo sappiamo tutti, anche il re dei balletti, vero Virgi? Non è un caso che... È stata la prima puntata di Video Dance on the Radio dedicata al nostro Michael. Esatto, molto bene, non ha torto, insomma, hai fatto questa scelta. E perché effettivamente insomma Michael è stato veramente pioniere di tanti passi, coreografie, balletti e quant'altro, e ha anche rischiato di essere coinvolto in un piccolo giudizio, appunto una piccola causa per plagio relativa ad una sua coreografia, ma non ad una coreografia, ma proprio il passo per eccellenza di Michael Jackson, la moonwalking. Lo sapevo che sbagliavo. Ma noi siamo qui apposta. Ok, grazie. Per dirti quando sbagli. Perché ho scoperto che in realtà è stato tale Bob Fosse, che è Fosse no, che ha... Ma se fosse... portato alla ribalta il passo di il moonwalking, appunto, nel film Il Piccolo Principe. Ho scoperto questa cosa, sì. Non è stato Michael Jackson, ma tale Bob Fosse. Fatto sta. Io farei vedere la faccia di Virginia che guarda Gabby dicendo: hai capito? Cioè, comunque stiamo a fare uno scoop, raga, perché pure io, no? Ma tutti quanti il moonwalking penso che lo attribuivano a Michael Jackson. No, io lo sapevo che non era suo. Ecco, Virginia lo sapeva. Sapevo che ci fosse il film del Piccolo Principe. No, infatti è quella la cosa più... Del Piccolo Principe. Sì, sì, il Piccolo Principe. No, ho visto qualche scena, effettivamente c'è, cioè Bob Fosse che... Non si chiamava diverso da Piccolo Principe, quello di Antoine? il tratto dal romanzo. Sì, Andiamo a cercare tutti, sì. Quindi anche dov'è ascoltatori. Beta? Bene, questo è un lancio, così vi invito ad approfondire l'argomento. Effettivamente sembra proprio Michael Jackson, cioè si vede che Michael si è un po' ispirato, magari. Chissà. E, dopodiché sono pronta per lanciarti, maestro, perché il passo celebre, il passo è breve e anche celeberrimo, quell'altro passo di Michael Jackson su cui si è veramente creata una lite, una storia, una questione, ma ti cedo la parola così che potrai narrarcela. In quello che è lo spin-off del quale lo stesso Michael Jackson è protagonista, lo spin-off di Cigni di Balacà, detto Paul e Mickey, che analizza il rapporto fra Paul McCartney e Michael Jackson nel corso degli anni, insomma, 80-90, in cui si sono conosciuti, e abbiamo sì appunto un qualcosa che veramente lanciava un gancio a 100 rubriche insieme. Poteva essere un rise and fall, poteva essere, insomma, si va a parlare di uno scioglimento avvenuto, ma comunque sempre noi ne veniamo a capo grazie all'FBI che ci manda dei file di nascosto. La CIA. Dobbiamo un po' decifrare quello che eventualmente è successo, e quindi vi invito ad ascoltarlo insieme e poi eventualmente scovare le verità, perché qui non celiamo niente, non siamo... Basta, vado avanti con Paul e Mickey. Gonna buy your songs. Smettila, Michael. Comprerò le tue canzoni. Oh, ancora queste storie. Ma tu mi hai detto di investire. Oh, ma mi hai preso troppo alla lettera. Ah, sì? Proprio così. Per fare soldini bisogna spendere soldini. Oh, non essere stupido. Ci sono tanti modi per investire. Adesso te li faccio vedere io. Ma dove stiamo andando stavolta? Dai miei amici Rocco. Oh. Stanno provando. Entriamo. Arriva. Michael. Buonasera a tutti. Michael. Ma è sorpresa. E c'è anche Paul. Ragazzi, vi presento Michael Jackson e Paul McCartney in quel di Firenze. Oh, non vorremmo disturbare. Ma che disturbo, è un piacere. Michael, ci ho pensato su e si vuole fare di morto. Ma lo so studiato. Fantastico. Di cosa sta parlando? Sì, vabbè ragazzi, ma noi si sta provando. Piero, le public relations, tu te le fai fuori dalla sala prove, così mi arma. Oh. Kiko, non mi rompere il film che c'è con Michael. Qui si parla di star internazionali, capito? Io mi sbatto per l'immagine di gruppo e voi sempre a berciare. Volevo far vedere a Michael la coreografia. Dai, si fa da capo. La coreografia? Dai, forza! 1, 2, 3, 4! Oh! E che tu fai? Piero! Era così, no? Devi alzare le punte dei piedi e mettere la mano qui. E qui dove? Sul pisolino. Ti faccio vedere. Perfect. Cos'è sta roba? Non sei rocker. Questo è il futuro. Gigo, tu sei nel passato. Che adesso se levano le mutande e te tiro in diretta. Piero, te tu ti sei rincitrullito. Gigo, ragazzi... Questo è il vero salto di qualità, capite? C'è bisogno di rompere i muri del perbenismo. Sei pronti? Dobbiamo investire tutto sulla provocazione. Investire. Il signor Renzulli? Sì, sono io. Abbiamo un ordine di pignoramento per lo stabile e strumenti compresi. Ma cosa di? Cosa fate? Che cosa hai combinato? Le mie chitarre! Sì, sono ormai di proprietà della Sony. Che t'ha fatto? Mi dispiace, le carte parlano chiaro. Abbiamo qui il mandato. Maremma, che t'ha fatto? Ti compra la mossa di Michael. T'ha capito? Si sfonda di morto. A proposito, signor Pelù, un'ultima firma qui sul contratto, prego. È il contratto di cessione dei diritti sulla coreografia del signor Jackson, che lei ha acquistato. Congratulazioni, signor Pelù. Michael, grazie. Il copyright della mia dance è tuo ora. Mi ringrazierai. Se tu ci hai venduti al Giappone, io ti ammazzo. Pezzi di cuore! Erano un gruppo molto affiatato. Te l'avevo detto che imparate a fare i soldini. Andiamo, ho creato un mostro. Il mondo della radio è un pasticcio. Radio Forte, 100 celle Avenger è molto meglio di qualsiasi cosa abbiano lassù. Radio Forte 100 celle Avengers, mentre ho messo lo stacchetto per Ariel che mi manca comunque un pochino, lo posso dire, non lo devo dire se perché se no si mettono a piangere proprio i Virgiani. Dopodiché vabbè, comunque cioè, è a casa che cucina Ariel, le voglio tranquillizzare tutti, che ormai è autonoma, entra, esce, butta la monnezza. Dopodiché volevo fare i complimenti a Paolo e Michi, scusate prima di continuare perché siete stati eccezionali. Sono stati, l'FBI è stata brava a riprendere a scovare questo di nascosto, sì. Negli anni abbiamo scoperto quindi come Piero Pelù si è impossessato. E infatti questa scoperta nella redazione ha dato scompiglio, tanto che Piero Pelù e il FIBA sono diventati involontariamente un po' un tentativo di Phil Rouge, perché comunque ci siamo già accaniti insomma sul povero Pierino, che è già protagonista di una delle nostre famose sigle. Dopodiché è successo, perché così citiamo la Vicenza e, citando Viola, professoressa Viola e, Vicenza, sì, niente, un po' indie e quindi è con orgoglio comunque che andiamo avanti con la rubrica che nel suo fare sempre il suo dovere proprio ligia al tema, anche quando non c'è il tema, ci parla di FIBA e la rubrica di Virgi che è Colpi Bassi. No, non dire sigla. Di qualcos'altro. Colpi bassi. Sigla. E stare zitti. Oh, e oggi per la prima volta a Colpi Bassi non parliamo di un bassista, o comunque non parliamo solo di un bassista, ma parliamo proprio di un basso. Oggi parliamo di un personaggio inanimato che si chiama Attilio. Ma chi è Attilio? Attilio è un Fender Precision Elite 2 Special, come ci tiene a precisare il suo proprietario, il suo ex proprietario, ora ne parliamo subito, che appunto oggi appartiene a circa 300 persone. Forse lo riconoscerete perché diciamo, è stato un grandissimo protagonista della musica italiana. Io partirei immediatamente con una bella carrellata per farvi capire di cosa stiamo parlando. La carrellata di Attilio. Esatto. Un'erezione, un'erezione, un'erezione, un'erezione triste. Lasciami qui, lasciami stare. Posso solo dire che diventata una furia a montare, sono orgoglioso di te. È il mio lavoro, grazie. Basta, solo questo, Reaper su 100 Cell Avengers. Grazie mille. Parlavamo appunto di Attilio, ma parliamo anche del fantino di Attilio. Il fantino di Attilio in questo caso è stato Gianni Maroccolo, storico bassista dei Litfiba, dei CCCP, dei CSI per citarne alcuni, grandissimo produttore di gruppi come i Marlene Kunz. E quindi insomma ecco un grandissimo protagonista della musica italiana. Il ruolo nei Litfiba per me fu fondamentale, tanto che quando ne uscì tra l'89 e il 90 diciamo la loro carriera diciamo atteso a chiudersi un pochino sotto il controllo di Ghigo Renzulli, il chitarrista, mentre prima diciamo il ruolo del bassista era un ruolo fondamentale. Ma posso spiegarlo meglio con le parole di un giornalista musicale, Federico Guglielmi, che ha spiegato appunto, che ha parlato di questo, del suo ruolo insomma soprattutto nel gruppo dei Litfiba con queste parole. Lui non era, con tutto il rispetto per la fin troppo bistrattata categoria. Che cosa c'è il riverbero? Mi avete messo? La citazione, metto il riverbero, forse ho sbagliato. Vai. No, va sempre bene. Io lo voglio comunque il riverbero per tutta la rubrica, va benissimo. E, dicevo, fin troppo bistrattata categoria, l'ho fatto anche con la mano a cucchiaia vicino alla bocca per far capire a tutti quanti che insomma è effettivamente bistrattata. Lui non era il solito bassista. La sua presenza nella band era infatti fondamentale a livello di fungere da elemento catalizzatore ed equilibratore. Infatti diciamo che la parte melodica era appannaggio appunto di Gianni Maroccolo più che della chitarra, che invece svolgeva un ruolo molto più ritmico all'epoca, insomma appunto fino al 1990. E ci fu una reunion dei Litfiba e possiamo ascoltare il contributo del nostro diciamo nuovo personaggio che sta diciamo permeando, esatto, il nostro Pino Scotto, che ormai è quasi onnipresente nelle nostre pensavo puntate. Che era il giornalista che dicevi prima che era il nome vero di Pino Scotto. Noi già saremmo ammazzati. No. Invece quello era un giornalista, quello e era un questo giornale. Invece è Pino Scotto. È io Pino penso Scotto. Che Gianni Maroccolo ha fatto una stronzata proprio, se ne doveva stare a casa e doveva lasciare che loro facessero le loro cose a umma proprio. Ragazzi, ma mi sembra giusto che della gente che si sono separati, si sono mandati a fa, e poi a un certo punto, visto che sono con le pezze al culo, si era trattenuto un attimo, prima non l'ha detto culo, esatto. E a voi di queste cose non ve ne fotte un cazzo proprio. Ah. Riformare rifacendo le stesse stronzate di vent'anni fa. Comunque, c'è tanta di quella merda in Italia, va bene anche in FIBA, dai. Ah, comunque chiedo scusa se prima ho detto un giornalista e Pino, cioè anche Pino Scotto è un giornalista. Sì, ovviamente. Sì, ma erano due personaggi diversi, insomma. In questo caso stavamo parlando, appunto, Pino Scotto stava parlando della reunion che c'è stata con i Litfiba nella vecchia formazione. Appunto con Ghigo Renzulli, Piero Pelù e Gianni Maroccolo, che uscì all'inizio degli anni 90, facendo diciamo scendere un po' il tiro per quanto mi riguarda. Ma insomma Pino Scotto ha espresso perfettamente il mio pensiero. Ma torniamo ad Attilio e all'evento di cui vi volevo parlare. Chi allora, è questo Attilio? Eh no, l'ho detto prima. È il basso. Stava scherzando. Dov'è il tutucci? Grazie. Chiedo scusa. Ma appunto, torniamo ad Attilio. Un bel giorno, precisamente il 2 ottobre del 2016, apparve un post di Gianni Maroccolo in persona su Facebook che metteva all'asta, per motivi che sarebbero sempre rimasti, diciamo, misteriosi e personali, il suo storico compagno per 18.000 euro, diciamo cifra stimata appunto non da lui stesso, ma collaborando e chiedendo a estimatori, musicisti e gente insomma che non valutava l'oggetto per il suo valore, ma per il valore che aveva appunto ricevuto negli anni, essendo appunto uno strumento così importante. Subito iniziarono su Facebook a fioccare commenti aggregativi in qualche modo che chiedevano a gran voce di comprarlo in comproprietà e di lasciarlo nelle mani del legittimo proprietario. Più di una persona commentò che anche se avesse avuto i soldi non avrebbe potuto assolutamente tenerlo a casa, in quanto appunto non potevano immaginare il basso staccato dal suo bassista. E dalle parole di Gianni Maroccolo stesso, che ricorda perfettamente il giorno in cui lo comprò nel 1983 a Firenze, trapelavano i sentimenti che provava, e cito di nuovo testualmente, se mi volete mettere un po' di riverbero, mi fa sempre piacere, grazie. Allora, per quanto tenga più alle persone che alle cose, è innegabile che per me si tratti di un passo molto importante. Grazie del 18.000 euro comunque. Attenzione, un attimo, ci sto arrivando. Scusa. E così nacque la campagna Riprendiamoci Attilio, che incontrò tantissime resistenze, appunto per risponderti, da parte di Gianni Maroccolo, che semplicemente non lo trovava eticamente giusto e lo vedeva come un approfittarsi dei sentimenti dei fan. Giustamente, perché insomma io ho fatto un po' questo ragionamento: così tanta gente che è già andata a pagare Gianni Maroccolo per sentirlo suonare con Attilio, poi paga il basso di Gianni Maroccolo per lasciarlo a Gianni Maroccolo e sentirlo e andarlo a pagare per sentirlo di nuovo suonare con Attilio. Questa è una cosa, cioè, no, è un colpaccio se non sei uno che ci pensa a sta roba. Lui ci ha pensato e ha detto: io non vorrei fare questo. Infatti hanno raggiunto un gran bel compromesso, ovvero nessuno avrebbe comprato Attilio per tenerselo, ma hanno appunto fatto questo crowdfunding per mettere insieme più persone possibile e lasciare il basso nelle mani di Gianni. Gianni stesso però decise appunto di non utilizzarlo più. Quindi adesso in questo momento Attilio è esposto, se non sbaglio, a casa di Gianni Maroccolo, quindi può essere anche visitato. Penso sotto appuntamento, anche perché domani ci vado io e lo vado a usare, ti è? Mamma mia, domani che vado. Sogno. Ah sì, perché per andare sulla rubrica Virginia e RPU, questo bassista e questo basso sono stati i primi più importanti. Il mio primo bassista preferito è proprio Gianni Maroccolo, ed è da lì che io ho iniziato a prendere la mia fissa per dare i nomi ai miei bassi. Quindi te devi da ritenere fortunato. Grazie. Perché sei un cacone. Ok. Fa basta. E quindi come si è conclusa questa vicenza? Questa diventerà come Disanina. Che bello. Allora, la vicenda si è conclusa appunto con questa esposizione di Attilio in qualche modo al pubblico, anche se non pubblica e sempre è costante, ecco. Una bella targa con tutti i nomi di tutte le persone che l'hanno acquistato e un concertone nel 2017, se non sbaglio, che Gianni Maroccolo utilizzò proprio per suonare l'ultima volta Attilio. E il concerto si chiamò Buona la prima, 23 brevi linee di Attilio, e appunto fu la conclusione della carriera di questo grandissimo basso. Per diciamo informazione di tutti, Gianni Maroccolo poi si è preso un basso uguale, quindi adesso suona con quello. E concludendo la carrellata e la disannen sul nostro Attilio, io farei sentire uno dei pezzi meglio suonati da Attilio stesso e anche da Gianni Maroccolo, dai, facciamo così. Quindi per tutti quanti andiamo indietro nei Litfiba del 1980, 6, 5, non lo so, non mi ricordo. Gira nel mio cerchio. Yeah. sulla linea. Vai come me. Sono un cane nero ed ho l'energia del vento. Gravazione d'alcol mi distrugge un po' e non so che cosa fare quando finirà. Forte 100 Celle Avengers, sempre in diretta alle 18:26 di questo meraviglioso 19 marzo 2022. Volevo subito sfruttare il mezzo per fare un annuncio. Io la mia Gibson purtroppo non la userò più, quindi comunico direttamente il mio IBAN senza che fate. Allora, facciamo un PayPallone. Che è successo alla Gibson? No, niente. Io ho deciso semplicemente di lasciarla. Grazie, Virgi. Che con grazie, Virgi. Battutone. Pensavo di lasciarla nella scuola di musica a disposizione dei musicisti che eventualmente durante Musica Insieme ne avessero bisogno, però comunque il mio IBAN poi lo comunicherò a fine puntata insieme ai contatti. Ma è già così. No, però appunto volevo il PayPal. Comunque niente, dopo aver parlato del compleanno di Maroccolo. È di maggio, è del 7-9 maggio. È giù di maggio. Ah, fra poco. No, era Maroccolo. Comunque. Scusate, niente, oggi c'ho il pulsante facile. E quindi è con orgoglio che cedo la parola alla mia testa, finalmente, a colui che sta alla console a colorare i suoni e a prendersi i cazziatoni. Io mi metto il riverbero così a buffo solo per dire se il maestro è pronto. No, sì, vabbè, certo. Ma quando sarà pronto io dico sigla. Simi, ascolta Tommy con una candela accesa e vedrai davanti a te il tuo futuro. Ben trovati. ben trovati. Voi direte, oggi parlo di una cosa un po' strana. Cosa hanno in comune? Aspetta, aspetta, aspetta, scusa Silly, mi devi non dare prima, mi devi dire prima è il titolo. Finita. Ah, è non si sa. Il titolo della rubrica. Allora, questa siamo all'interno di Simply Sample, la rubrica che parla dei sample. Ah, è giusto, perché ho detto solo sigla. Eh sì, sapete siamo... che mi vengono i tic quando queste cose non vengono fatte c'ha bene. C'ha ragione Gabby, anche se mai dicevo, oggi a Simply Sample. Allora, parliamo di cosa hanno in comune l'autore della sigla del campionato di calcio giapponese del 2004 con sì sì con un artista tedesco. Non era vero. Beh, prego, vada, vada, vada, vai, metta. Ah no, però dall'altra parte, così mi si dice il bagger. Quell'altra cosa là, no, quella blu dall'altra parte, quella che sta su. Niente, noi non riusciamo a coordinare. Sabotaggio a Silly, mi no, assumo ma è responsabilità. È veramente difficile, comunque. Prego, vabbè. Maestro. Vabbè, insomma, a me si è spoilerato un po' tutto, però dicevamo, no? Io non cosa ho capito hanno, niente, cosa ma che hanno in comune l'autore della sigla del campionato giapponese del 2004 e un autore tedesco che è un ghostwriter, ghost author e ghost singer? Ghost Auro. Da questa canzone voi non avrete capito nulla, ma questi sono i Boney M. Sunny, 1976. Questo gruppo che voi direte, ma questi saranno inglesi, saranno americani, sono tedeschi. Perché questo è tutto scritto dal signor Frank Farian, che è un signore tedesco che non si è mai voluto fare vedere perché si vergognava a cantare queste canzoni. Io non capisco, mi fanno dicevo sempre dicevo di parlare più al microfono. Oh, io niente. Me devo guardare, ma quante cose veramente. Ma poco e tu? Hai ragione. Io non riesco sì, veramente. Ma a... il nostro foni. Ho capito, ma io devo fare da aiutiamolo, aiutiamolo. Tante aiutatemi cose. Per siamo favore, qui, non siamo sono qui in te. Grado. Comunque, questa bellissima canzone, il cui campione adesso il maestro mi manderà mettendo in pausa allo sfondo perché sempre, noi facciamo sempre cose più difficili poi insieme. Come se non l'avessi messo prima, però. Esatto, in realtà l'hai fatto. Questa canzone questo campione che come sentirete somiglia molto a questo questo è lo stesso che somiglia molto a questo mazza uguale pochetto, ci picchia e cosa vi ricorda questa cosa questo è un pezzo del 1996 di un autore romano di nome Tommaso. Se n'è andato via lo sfondo, se n'è andato via tutto. Scusate, non riesco a fare no, insieme. No, sì, mi assumo tutte le responsabilità, vai. No, non si preoccupare. Che l'ha ripreso per fare un pezzo bellissimo che si chiama Dimmi qual è il nome. Chi è questo Tommaso? Paradiso. Erpiotta! Ah, Erpiotta! Erpiotta! Ma perché sempre la domanda? Come ho potuto? Perché a me piace fare domande, mi piace perché la redazione. E a questo punto io manderei il pezzo del Piotta. Che si chiama Dimmi qual è il nome. Dai, fantastico. Tutti insieme, roba coatta. Dimmi qual è il nome di sta crew che te spacca. Tutti insieme, roba coatta. Dimmi qual è il nome di sta crew che te spacca. Tutti insieme, roba coatta. Dimmi qual è il nome di sta crew che te spacca. Tutti insieme, roba coatta. 8-9 agosto, sagra del coatto. Squarta Piotta, questo è il fatto. Il fattaccio, lo spaccio della roba. Pischie, ora magna testa sboba. Se la calcia è sporca un muratore. Ma dimmi come cazzo si macchia un porno attore. Generazione, stile sorcino. Fedele alla linea io, cicciolino. Bada, Hernando, scorri banda. Questo è il bando di concorso per la banda del trucido, strucido e che gli è strucito. Mas, dove M è magazzino. A come affari, S come samba. Sai che veste, tutti sti malandra. Tanti MC, troppi MC, senza capo né coda. Ora li rimanno a scuola. Roba coatta, il nome dell'Ateneo. Docente di stile, Luca Giurleo. Scopo microfoni fino all'amplesso cosmico. Stile sarà bandistico, sismico MC come un terremoto. Anche i culi più spenti, rimetto in moto. Controllo la candela, la puntina, la testina. Ora in bocca Toni, nel tuo Sony, ragazzina. Dimmi qual è il nome destra crew che te spacca. Tutti insieme, roba coatta. Dimmi qual è il nome desta crew che te spacca. Tutti insieme, roba coatta. Dimmi qual è il nome desta crew che te spacca. Tutti insieme, roba coatta. Dimmi qual è il nome desta crew che te spacca. Tutti insieme, roba coatta. Banda, l'ora è giunta, strofa unta. L'era dei coatti, putti ferimenti. Quando picco stemmi come Big Jim, radio forte. più che un player solo quando gioco a pasti notte. Cento accelerange style. Radio Forte 100 Celle Avengers alle 18.33, cercando di non spezzare la continuità che c'è con Simply Sampled, perché adesso sta per aver luogo una cosa brutta, una prepotenza. Quindi parliamo piedi. Sopra anche a te? Oltre sì, ok, sì. Perfetto. Tutti carichi! Allora, l'ho detto, cioè, anche perché oggi nonnismo. Esatto, ho interrotto più o meno tutti, rischiandola tantissimo anche con Gab, insomma. Bei ricordi in quest'ora e mezzo che è passata fino ad adesso, ma adesso succede che, succede che abbiamo lo spin-off, perché ogni rubrica poi genera insomma, poche parole, sono andato a pestare i piedi a Simply Sampled, al povero Silly che già è bullizzato come fonico, poi spesso e volentieri la sua rubrica non si è fatta in comunque tempo io non sono riuscito a spiegare una cosa, poi, in effetti poi ho faceva fatto un bordello, esatto, è andato subito la canzone, poi no. Si doveva fonicare da solo perché io non ero sul pezzo, no, poi, ma il mondiale del 2004 quando faceva a Silly, ve lo ricordate, a Silly lo cominciavano a blastare perché faceva l'intervista a 50 minuti, in effetti 50 minuti era un po' tanto, era un quarto d'ora. Però poi l'ha ridotti a 6 minuti, non so come ha fatto. Comunque, sta di fatto che nonostante tutto il suo essere mite e tranquillo, io sono andato proprio a rompere a lui le uova nel paniere, ma affrontando il mondo dei campioni, sample, appunto, Simply Sampled, con dei campionamenti, sfaccettatura, non mi veniva la parola, dei campionamenti, con una sfaccettatura più acustica, diciamo, unplugged, dedicata ai campioni prettamente non musicali. Probabilmente ricorderete i suoni di cui abbiamo parlato la scorsa volta, i suoni della presa bene, i suoni della presa male, la sigla di Uno Mattina, un sacco di cose che sempre quando avevamo già la rubrica ma non sapevamo di averla abbiamo detto, e questa volta invece abbiamo proprio un'altra volta l'istituzionalità della sigla, che io sono emozionato un'altra volta perché oggi ce ne ho due, e quindi Campioni del Mondo, che vuole essere questa rubrica che tratta i campioni ma soltanto quelli che non tratta Silly praticamente, e si intitola con questa sigla. We are the champions of the world. Campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo. Campioni del mondo. Campioni. Lo spinzolo dei cani. Campionato. Il coccodrillo. Campionato. Il gufo con gli occhiali. Campionato. La luce di un mattino. Campionato. Campionato. Il mondo. Campionato. Campioni. Ogni nota che sento. E molto bene, qui a Simply Sampled / Campioni del Mondo. Posso fare subito uno spoiler per la puntata di fine anno 2022? Prego. Entrerà sicuramente nella top 3 della classifica delle sigle. Riporteremo a tutti gli artisti che hanno partecipato i tuoi ringraziamenti, Virgi. E come al solito sì, è un crowdfunding di artisti che mandano il loro contributo. E comunque, a Campioni del Mondo oggi, senza farvi perdere troppo tempo, andiamo a trattare un campione della vita mia, come al solito mia, ma di chi passa al Forte Prenestino, quindi siamo sempre sul pezzo di parlare dell'attualità. Oggi ci ha preso questa cosa d'attualità, e quindi parliamo di Patrizio il Gallo. Chi è Patrizio il Gallo? Allora, Patrizio il Gallo è un animale. È un gallo. Come dice la parola, è un gallo. Non ci si stupisce ormai, perché è uno di quei fenomeni che siamo abituati ormai a vivere da quando c'è questa cosa, vi ricordate, insomma, il risveglio, insomma, quando c'è stata natura, la pandemia, sì, no? Sì, tutti sì, stavano sì, a casa, quindi l'inquinamento incredibilmente serio, insomma, e bestie nuove, uccelli, cose. Figuratevi al Forte Prenestino, dove già comunque era il regno dei cani e dei gatti, sì. E tentativi vari di innestare nuove specie. La natura si è riappropriata. Durante la pandemia invece siamo diventati la piccola fattoria, la piccola pandemia, E quindi tra i vari protagonisti di questa pandemia c'è cioè, no, ma insomma, della vita del Forte, perché se lo, lo vedete e lo ascoltate, c'è appunto Piccioni. Patrizio il Gallo, Ora, Patrizio il Gallo vive sulla collinetta che divide le due piazze d'armi, che divide il forte nelle due piazze sotto d'armi, le api, più o meno facendosi sentire quindi sia a destra che a manca. Che cos'era che mi disturbava? Che io, cioè, lo so che vado molto per stereotipi, soprattutto qui a Centocelle Avengers. Dopodiché il Gallo lo aveva assimilato nella vita come Kikiriki. Io farei notare che manca un chi, sì, cioè fa manca un ri, un, cioè insomma, nel farvi riflettere poi sul fatto che nelle varie lingue hanno cose di, hanno traduzioni diverse, voi pensate che tutti dicano bau, no, solo gli italiani dicono bau, gli inglesi dicono wuff. E quindi per il Gallo c'era una clock of Dinkon Clank, il verso del Gallo in inglese, in modo lo sto facendo l'imitazione, in realtà era talmente buffo che era tipo supercalifragilistico che non lo saprei ripronunciare, ma mi ricordo che quando la professoressa di inglese ce lo insegnò, grazie Giorgio il contributo, stavamo lì che la bullizzavamo praticamente, lo ripeta, io facciamo ripetere 100 volte perché lei comunque all'inizio ce lo voleva insegnare, poi ha capito che la prendevamo un po' in giro. Insomma, sta di fatto che il Gallo può cantare in tanti modi, ma in Italia canta chicchirichi e questo canta chicchichi. A me mi dà fastidio, mi dà talmente fastidio, prego. No, vabbè, no, vogliamo dirlo che sono tutto. Parole onomatopeiche. L'abbiamo detto, lo vogliamo dire, non l'abbiamo cantato. Cosa? Il fusciare delle chicchirichi o bau bau, ah, sì, miau miau, insomma. La parola cerca e quindi di riprodurre... vuol dire che insomma nelle altre parti del mondo. No, interessante questa cosa, non ci avevo mai riflettuto. Che no, sì, altre parti del mondo la sentono diversamente. Io ci proprio. Riflettevo quando leggevo Topolino e leggevo dei nomi che non corrispondevano all'italiano, perché ogni tanto le tenevano queste cose. Ma tipo allora, scatenato il mostro, Daniele, il cane sul Topolino. Stanno in caciara il motivo per cui prego. Chiusa parentesi. Comunque no, appunto il discorso era, non dico in tre quarti, ma appunto questo Gallo un po', perché poi in inglese appunto c'ha svariate altre sillabe, non è chicchirichi ma chicchirichi chicchirichi, quindi cioè, diciamo, attenendoci al chicchirichi, questo che faceva così semplicemente mi evocava un musicale dentro di me che non riuscivo a riconoscere all'inizio, e quindi ogni volta mi cominciava in testa e il pezzo non andava avanti e lui invece ricominciava e... Il musicale era questo. Mini Moocher. Mazza. C'è sta, raga, eh? Bellissimo. Mazza, tu sì che sei onomatopeico. Questo è un pezzo onomatopeico dei Blues Brothers che adesso va a chiudere. Risata. Va a chiudere, ecco, mi hai rovinato tutto. Va a chiudere. Scusatemi. La rubrica dei campioni del mondo. Chissà la prossima volta che cosa andremo ad ascoltare. Ma intanto. Mini De Muccia, la redazione di Centocelle Avengers. Che sta succedendo? E Patrizio. Oh, ci sta bene ovunque lo metti. Grande. Grande Patrizio. Uno di noi, uno di musica d'insieme. Hey folks, here's a story about Minnie the Muccia. She was a low down huge coocha. She was the roughest, toughest frail, but Minnie had a heart as big as a whale. Honey, honey, honey, honey. Chinatown, and he showed her how to kick the gong around. Hidey, hidey, hidey, hidey, hidey, hidey, hidey, hidey, hidey, ho. She had a dream about the king of Sweden. He gave her things that she was needing. He gave her a home built of gold and steel, a diamond car with the platinum wheels. Hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, racing horses. Each meal she ate was a dozen courses. Had $1,000,000 worth of nickels and dimes. She sat around and counted them all 1,000,000 times. Hidey, hidey, hidey, hidey. Hidey, hidey, hidey, hidey. Hidey, hidey, hidey, hidey. Hidey, ho. Radio Forte 100 Cell Avengers, nel ricordarci quindi che tutta la vita nostra può essere campionata e può diventare parte di un... Radio Forte 100 Cell Avengers, nel ricordarci quindi che tutta la vita nostra può essere Radio Forte 100 Cell Avengers, nel ricordarci quindi che tutta Tornato. La vita nostra può essere io. E niente, la gag oggi ce l'ho facile, quindi nel passare di nuovo sul pezzo dell'attualità che oggi abbiamo deciso farla da padrone, io oggi sono altresì orgoglioso, oltre che di parlare di altre cose diciamo che riguardano la Radio Forte, anche di introdurre un servizio, ma andiamo con ordine. Anzitutto vogliamo nuovamente salutare Guido e Cobol, perché li salutiamo con un applauso. No, senza applauso. Ciao cari. Questa è cattiveria gratuita. Perché, vabbè, riportiamo comunque come servizio sull'attualità il palinsesto di Radio Forte, che si arricchisce di varie nuove trasmissioni. Da una parte abbiamo Cobol Pongide, appunto già protagonista di Boca Chica Cosmodrome, una trasmissione che tratta della Space Economy, tutta da gustare, tutto un crossover con 100 Cell Avengers, che chi non ne sa, cioè insomma da Stark Industries, Iron Man, insomma Cobol ama molto Iron Man, è proprio il suo personaggio preferito, spendibile. Comunque, a parte questo, adesso partirà una serie di diciamo Boca Chica Cosmodrome user friendly, diciamo puntate un po' più comprensibili, perché io ne parlo con entusiasmo, ma poi cioè, diciamo se non gli stai appresso diciamo sono concetti, insomma trattazioni abbastanza, e invece ha deciso complesse, di fare ecco, sì, queste sono state nella prima stagione, ma la seconda stagione è appunto tipo la linea comica di Occhi del Cuore, cioè ha annunciato che ci sarà un po' di divertimento anche così gratuito, e quindi la questo ma soprattutto, siccome abbiamo parlato l'altra volta di Gopnik Pioneer o Pioneer, la trasmissione che doveva andare in onda, che non è andata in onda, la censura, Dostoevsky, oddio. Vabbè, noi l'abbiamo difesi, ma in realtà poi comunque loro hanno deciso di rieditare un po' la trasmissione, che adesso si chiamerà Pancrazio. Pancrazio, appunto. Pancrazio dalla fusione delle parole punk e razio, laddove appunto prima si voleva creare il dualismo fra i Gopnik e i Pioneer, che se non sapete chi sono andatevi a sentire la scorsa puntata sul sito fortepenestino.net/radioforte in podcast. Due puntate fa. Ma comunque è un dualismo, un taoismo appunto di quelli che Guido ama proporre per introdurre le sue rubriche e non dire poi di che parlano, perché raga io so di solo questo. Ma posso fare una premonizione? Sì. Secondo me, cioè trattandosi di due personaggi che sono entrambi, insomma, ciascuno una fucina di idee così continue, fagocitano uno, la prendono, poi la ricambiano. Assisteremo ad una, cioè forse questa è stata la prima di una lunga serie di proposte di nuove trasmissioni. Dici su Radio Forte. Non so se vedremo mai, vabbè, comunque ciascuna facciamo di queste potrebbe non vedere mai la luce, ma sarebbe comunque bellissimo. Cioè io penso che dovremmo ogni volta, di volta in volta, invitarli, farci raccontare un po' il titolo e poche altre cose. E poi anche quando, passare per esempio, oltre, perché non l'abbiamo detto, comunque si tratta di martedì sera alle 21 e mercoledì vedremo sera sempre saremo pavimenti a vedere alle 21 rispettivamente. Per prego Giorgi, adesso puoi parlare, prego. Com'era quel concetto per cui se noi ne stiamo parlando di questa trasmissione, questa non trasmissione è già già esiste nella storia, già esiste, già no? Esiste, sì. Esatto. Quindi, come quel video, vero, vive anche come tramite il video di Jorge El Mentiroso, che comunque appunto Guido vive e lotta insieme a noi, è stato girato perché ne abbiamo parlato talmente tanto che ormai è la memoria collettiva, questo voleva ricordarci Jorge. Ma appunto Jorge è proprio colui che adesso gestirà questo momento di attualità che appunto volge dal palinsesto a un nuovo servizio che Radio Forte, certo c'è le Avengers, vuole darvi alle 18:48, e cioè cioè non vorreste tutti voi a casa, non dico voi che siete qui, sapere com'è il tempo al forte? Certo, sapere le condizioni climatiche generali del forte, certo, ricordiamolo, è un microclima a parte, certo. Ma ci interessa davvero il tempo di ora o vogliamo il tempo del futuro? No, vabbè, non possiamo. Previsioni meteorologiche. Previsioni. Io cioè ero sul fatto che noi avremmo dato semplicemente delle, okay, delle statistiche attuali, ma se tu veramente vuoi spoilerare il futuro, comunque 13,1 gradi e la pressione di 1028,51 ettopascal o millibar, che dirsi spiegheremo voglia. Dopo cosa sì. E il punto di rugiada è 6,4 gradi, visto che la l'umidità è del 64%. Punto di rugiada. E stranamente, a differenza del solito, al forte fa la stessa temperatura che si riscontra anche al di là delle scalette o a Piazza Teofrasto. Invece normalmente e questo non è possibile. 3-4 gradi in meno normalmente, ma oggi no. Oggi incredibile, no. Incredibile. Rai. Il rivellino che separa i due microclimi, che la... generalmente si. Io leggo insieme a te, credo. Giorgi. Quindi la velocità del vento. La velocità del vento. È un attimo che me lo so no, perso. Perché al forte è importante per i gazebi. Quindi, cioè, diamo un servizio fatto bene, per favore. Tipo i naviganti. Ma infatti io direi. La velocità massima del vento è di 16 km all'ora oggi. Okay. Che tutti sanno più o meno a cosa. Ma porta. Lo consideriamo un vento. No, poco vento. Non volano. Cioè, non volano. Vabbè, io posso dire, no? Che a questo punto la chiamerei questa cosa: previsioni e precauzioni. Precauzioni da utilizzare per venire al forte, no? Assolutamente. Se noi facessimo questo servizio ogni volta che c'è un'iniziativa, previsioni sarebbe e precauzioni. Quasi utile, Viola, lo sai? Cioè, eh sì, anche per mettete l'impermeabile, perché oggi al forte piove. Tanto è sempre lo stesso discorso: dove vanno al forte? Che tempo farà? C'è questa in cosa. Realtà, sì, è vero, il nostro supercomputer super computer, tramite un algoritmo modernissimo che si chiama Zambretti, per oggi ha emesso queste previsioni. Il tempo è buono, sarà buono, però sarà. In realtà una cosa semplice, cioè, con diretta. Un altro modello invece matematico basato su più dati ci dice che domani dalle 19 in poi c'è una probabilità del 79% di pioggia. Però invece il pomeriggio solo il 24% di probabilità di pioggia, quindi... Ma domani c'è il terra-terra, vero? E tra l'altro c'è anche il secondo, terzo, quarto round del compleanno di Gabrina. Oh mamma mia, è vero. Per chi non avesse ancora brindato con Gabri, venite domani al terra-terra. Approfittatene perché domani chiudiamo i festeggiamenti. Quindi chi si prenota per la torta delle 15 può venire senza ombrello, invece chi si prenota per la torta delle 19... deve venire con l'ombrello perché probabilmente pioverà. Ok, noi non portiamo Ariel allora. Hai visto che serve? Ci stiamo organizzando per domani. Comunque odorerebbe di cane bagnato. Imparate da noi. Giorgi, ma comunque scusa, per sciogliere un po' questa cosa, perché mi pare di capire quindi che da un lato si dice il tempo è buono e da un altro si dice che pioverà, giusto? Ma sono tutte probabili, cioè sono sì, previsioni. Previsioni, cioè è la probabilità che questa previsione possa, cioè la previsione della previsione al vero, sì. Sì. No, ma io voglio dire che poi il tempo buono, che vuol dire? Magari da qualcuno potrebbe essere considerato un tempo buono o un po' di pioggiarella, no? Te l'ho detto, questo è un neanch'io è un algoritmo molto moderno che gira su un supercomputer nascosto nei sotterranei del Forte Prenestino e diciamo questo algoritmo questo algoritmo diciamo si mette nei panni di chi lo legge e quindi gli racconta la sua verità gli racconta la sua verità vuole lo voglio no lo voglio. A interpretazione esatto. Diciamo voglio no, no, interpreta come vuole bene no è bello comunque l'algoritmo cioè grazie per aver rivelato dietro le quinte della previsione praticamente nulla però cioè possiamo dichiarare comunque concludo il primo step di aria pulita, voglia di vita, la rubrica che si occupa del meteo, del forte. Ma possiamo fare anche un acronimo di questa IMCA? Solo se c'è una sigla. Non lo so, ci pensiamo comunque. Pensiamoci. Com'è aria pulita, vita infinita? No. Scusate. Aria pulita, voglia di vita, vedi voglia di vita, cuccarini. Scusa. Ok, comunque, va bene, pensiamoci su 100 Celle Avengers, quando sono le... E non a caso ho detto Cuccarini, chiedendomi se non fosse troppo tardi per sentire parlare di danza alla radio. Ma noi no, come maestro? No. Come? Non abbiamo una sigla, abbiamo questa cosa qui in scaletta. Oh mio Dio, ho dimenticato quello che era, diciamo, il nostro inizio. Poi ci siamo montati la testa, i servizi, le cose, l'attualità. Va bene, ce la facciamo più importante. Noi siamo, no? Una scuola di musica. Noi abbiamo una musica di insieme che si è divisa in quattro gruppi. Anche perché la nostra video dance on the radio, che doveva partire in questo momento, io direi che aspettiamo Betta per fare questo crossover fantastico per la prossima puntata. Per lanciarci un nuovo gancio, ok. Virginia non vuole, come al solito, chiudere 100 Celle Avengers negli ultimi due minuti. Possiamo dire che c'ha ragione. E quindi in questo momento mi ero dimenticato i quattro elementi della natura che compongono la musica d'insieme. Sigla. Los cuatro elementos. Los cuatro elementos. L'aire, l'acqua, tierra, fuego. Cuatro elementos. Los que tocan juntos. Elementos, los cuatro elementos, tierra, fuego, el aire, el agua, cuatro elementos, los que tocan la música juntos. Ay, ay. Sì, vabbè, sta durando un po' troppo sta sigla, siamo tutte lunghe. Oh, sì. Dai, chiudiamo. Los cuatro elementos, los que tocan la música juntos, juntos. Ay, ay, no. E allo squadro elementos, los que tocan la música juntos. Qua lo Suanos si sono veramente cimentati in un'opera magna, insomma, questa poi delle sottigliezze, capito, verso la fine, cioè delle cose, capito, che succedono veramente. Perché i fratelli tipo litigano. Che non finiamo mai pezzi, capito? E durano Los Hermanos litigano sempre come Paperino e Daffy Duck. Comunque sono fratelli. Comunque in questa rubrica, per chi non lo sapesse, trattiamo appunto dello stato dell'arte della musica d'insieme tramite il nostro drone DR100 che va a spiare nelle sale prove di nascosto. E quindi sigla non è vero, vado con il collegamento con il drone DR100. Yeah. nel salutarci, negli ultimi due minuti, anzi uno e mezzo, uno e un quarto, abbiamo messo una canzone. Perché? Perché la adoriamo, no? Ma non c'è qualcuno che ha ricevuto in regalo 100.000 serie originali? Vabbè, non lo vogliamo dire, 100.000, bellissimo regalo ricevuto dai miei, arriverà. Dai miei amici di MD, amiche e amici, un fantastico regalo. Non solo. Non solo, attenzione. Il fortino tutto. Fatto sta che è stato un bellissimo regalo, veramente tutta la collezione di Ranma mezzo in fumetti manga originali. Cioè, più veloce, va bene, c'è proprio la sigla, quindi mandiamola. E quindi niente, la nostra puntata si trova anche in podcast sul sito Forte Prenestino. Sigla. Ciao!